sai, è tutto quello che ho, io l'ho perso. Sapendo che da qui tu non passerai per un'idea di libertà come l'acqua nel mare. E sapendo che da qui tu non passerai per un'idea di libertà come l'acqua nel mare. Lo sai, forse partirò giusto in tempo per non tornare. Se questa sai, forse se riuscirà a sorreggermi per non cadere.